Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Cheese, sorridete per favore, siete a Essere e benessere. Buongiorno da Nicoletta Carbone. Ci state provando? Impegnatevi, dai, non è difficile. Abbiamo solo perso un po' l'abitudine a sorridere, ma ci sono tante, tantissime ragioni per coltivare e investire in quello che gli esperti chiamano benessere soggettivo. Prima fra tutti che sorridere, avere un atteggiamento positivo nei confronti della vita, allunga la vita, ma aiuta anche a guarire prima e meglio. È tutto provato da numerose ricerche, sono 160 quelle che ha passato in rassegna un ricercatore dell'Università dell'Illinois per giungere a quello che, come titolava un bell'articolo del Corriere Salute di domenica, possiamo sintetizzare in sorridi e vivrai più a lungo. Smile, though your heart is aching. Sorridi, anche se il tuo cuore soffre. Sorridi, anche se si sta spezzando. When there are clouds. Quando ci sono nuvole nel cielo, non ci penserai se sorridi. Attraverso la tua paura e il tuo dolore, sorridi. E forse domani vedrai il sole levarsi e splendere per te. Smile and maybe tomorrow. E in linea con noi abbiamo il professor Claudio Mencacci, direttore del Dipartimento di Neuroscienze del Fate Bene Fratelli di Milano. Professore, buongiorno, l'accolgo con un bel sorriso, bentornato. Buongiorno a lei, ascoltatori, anch'io un sorriso per voi. Allora, professore, non ci resta che sorridere. Beh, direi che sorridere ormai è stato dimostrato e la scienza su questo finalmente si occupa dell'importanza di pensieri e emozioni positive, ha dimostrato che ha un influsso sul nostro organismo a livello biologico, a livello immunitario, a livello di proteggerci dalle malattie, particolarmente significativo. Quindi avere un buon sorriso veramente allunga la vita e non è più un luogo comune, non è una banalità, ma sorridere permette alle persone di vivere più a lungo e di vivere meglio e aggiungo anche di far vivere meglio chi è attorno a loro. Professor Mencacci, io la ringrazio per essere stato con noi, quindi noi anche quando non abbiamo tanta voglia proviamo a vedere le cose sotto un'altra prospettiva? Proprio così, non solo un'altra prospettiva, ma è la modalità di risolvere problemi e di non creare altri problemi. E il nostro organismo, che ci risponde con uno stile di vita più sano e più favorevole a noi, ci sarà riconoscente e questo vivremo meglio e più a lungo. Professor Mencacci, grazie per essere stato con noi. Grazie, buona giornata. Altrettanto e buon sorriso. Buon sorriso. 800 24 00 24, un numero verde per parlare del nostro sorriso, di quello che siamo capaci di offrire, di quello che vorremmo ricevere. E anche delle volte che è bastato un sorriso per, raccontatemelo voi all'800 24 00 24. Il sorriso, lo sappiamo, è uno strumento di comunicazione, di sicuro sfoderare un bel sorriso aiuta nel primo contatto, nelle relazioni con gli altri, ma anche specchio della nostra salute. Ne parliamo oggi insieme a due esperti. Ho qua in studio con me il dottor Martelli, che è un odontoiatra già rassicurante, perché buongiorno intanto dottor Martelli. Buongiorno. Lei è un odontoiatra e ha fondato un istituto per lo sviluppo dei trattamenti non invasivi in odontoiatria. Quindi già dal dentista ormai si va senza paura perché non fate più male. Però questo mi piace molto. Ci racconti? Sì, quando parliamo di trattamenti non invasivi ci riferiamo anche alla minima invasività psicologica del trattamento. Quindi smitizzare questa figura del dentista che mette paura a tutti è uno degli obiettivi che ci siamo prefissi già 10 anni fa quando abbiamo fondato l'Istituto Microdentistry, che comunque ha la prerogativa di obbligare tutti gli operatori a lavorare con il microscopio operatorio. è sicuramente un passo avanti. Ma qua in studio con noi abbiamo anche il piacere di avere il professor Crippa. Buongiorno professore. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Il professor Crippa è direttore del reparto di patologia orale e laser terapia all'Istituto Stomatologico Italiano di Milano. Insieme a due esperti quindi cercheremo di raccogliere tutte le informazioni necessarie per fare prevenzione, per mantenere e continuare ad avere, ma anche recuperare una bocca a prova di sorriso e, perché no, di bacio, possiamo farcela. Ma saluto anche la dottoressa Sara Viola, che è in linea con noi, medico e psicoterapeuta. Dottoressa Viola, lei ha già una voce sorridente, quindi già mi piace, bentornata. Buongiorno, un sorriso a tutti. Allora, il sorriso, dottoressa Viola, racconta tante cose. Ci sono persone che però hanno un pochino di difficoltà. È diventata una cosa talmente rara, il sorriso, che a volte, non so se è capitato anche a voi, quando si sorride ad uno sconosciuto, ad una signora, anche non generalmente, anche all'altro sesso, vieni guardato un po' con sospetto. Cosa vorrà questa che sorride? Dottoressa Viola, siamo arrivati a questo punto? Ci siamo arrivati già da un po' a questo punto, alla diffidenza addirittura che accompagna il ricevere un sorriso da una persona che non conosciamo. E quindi soprattutto devo dire che in questo l'Italia va un po' divisa, tendenzialmente noi che viviamo tra le nebbie del nord siamo meno avvezzi al sorriso, al sud ancora qualcuno sorride con maggiore immediatezza, però è vero che siamo più propensi a ricevere, diciamo, a guardare una faccia immusonita, perché non ci desta sospetto, perché in fondo ci siamo abituati, che è una faccia sorridente, dalla quale a volte ci sentiamo addirittura presi in giro, tanto è la disabitudine a scambiarci dei sorrisi. A volte, dottor Martelli, si vorrebbe sorridere, ma si ha un po' timore di farlo, perché la nostra bocca non è perfetta, ci sono persone che hanno dei veri e propri complessi. Lei che cosa guarda del sorriso di una persona? Per noi è quasi una deformazione professionale. Appena conosciamo una persona nuova, scannerizziamo prima di tutto nel viso il sorriso. Certo. E quindi l'anatomia perfetta e la funzione coerente della bocca sono quello che noi valutiamo immediatamente. Quindi le discromie, per esempio, dei denti, le malposizioni, il fatto che ci siano degli elementi mancanti ed evidenziabili, ci condiziona subito nel nostro approccio con le persone. È una cosa che noi non possiamo fare a meno di... Cade l'occhio, insomma. Sì. Professor Crippa, ci aiuti anche, allora, ci impresti il suo occhio clinico per guardare con attenzione la nostra bocca? Noi ci mettiamo davanti allo specchio e guardiamo sicuramente i denti, possono essere più o meno allineati. Adesso su questo poi magari torneremo, ma... Dove deve andare il nostro occhio? Beh, sicuramente il fatto del sorriso è una cosa importantissima e può condizionare anche lo svolgimento della vita quotidiana. È chiaro che nel momento in cui controlliamo la nostra bocca dobbiamo sempre verificare che non ci siano alterazioni per quanto riguarda gli elementi dentali. È chiaro che però nella bocca non esistono solo gli elementi dentali, esistono anche le mucose orali, di cui peraltro io faccio sempre molta attenzione ai miei pazienti di sollevare proprio questo problema, cioè guardate i denti ma guardate anche le mucose, perché spesso nelle mucose ci sono problemi e possono nascere problematiche anche più importanti. Le gengive poi sono l'altro aspetto importante, il sanguinamento gengivale per esempio durante lo spazzolamento dei denti può essere il segno di un qualcosa che non va. Sicuramente. Quindi raccontateci i vostri sorrisi, raccontateci della volta che un sorriso ha cambiato un po' la situazione, ma guardatevi anche, ispezionate la vostra bocca, perché oggi, come avrete capito, parliamo di sorriso a 360 gradi. 800 24 00 24, già 2000 anni prima di Cristo Galeno affermava che le donne allegre guariscono prima di quelle tristi. Insomma, da Rilke, da Aristotele, da Freud, a Palazzeschi, nel corso dei secoli letterati e filosofi e scienziati hanno sempre indagato i poteri del sorriso, del riso, ma come sappiamo c'è risata e risata. Chi prova a ridere col naso fa più o meno così, orrendo. Chi Chi prova a ridere tra i denti potrà solo un serpente imitar. Quasi disgustoso, non mi piace affatto. In fretta va, chi vuol scoppiar? Quando si sente Mary Poppins, vedevo qua in studio, si torna, sì, il sorriso, questo è un sorriso che nasce dal cuore. Dottoressa Viola, da dove nasce il sorriso? Dal cervello o dal cuore? Il sorriso nasce da tutto il corpo, secondo gli orientali addirittura nasce dalla pancia, sicuramente ci sono le emozioni affettive, quindi il cuore è interessato, e la testa interviene forse un momento dopo nel capire che si sta ridendo e fino a che punto si vuole andare avanti a sorridere e che tono si vuole dare alla nostra risata. Diciamo che la testa ha sempre un po' la funzione di controllore, quindi inibisce anche un pochino il sorriso. Sicuramente però il sorriso è un movimento talmente vitale che possiamo dire che tutti i muscoli del nostro organismo sono coinvolti nella risata. Andiamo nella provincia di Modena, c'è Paola, 800 24 00 24. Vediamo se Paola vuole occuparsi di sorriso come strumento di comunicazione, ma vuole anche avere dei consigli per sfoderare un bel sorriso. Un sorriso che farebbe rimanere incantati i miei due esperti, il dottor Martelli e il professor Crippa, che ho il piacere di avere qua in studio con me. Paola, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, l'ascolto sempre tanto volentieri con affetto. Grazie, questo mi fa piacere. Sto parlando con un sorriso, lei ovviamente non mi vede ma si sente, lo può intuire. Certo. Ecco, io ci tenevo a dire questo, che io amo moltissimo far ridere e far divertire, e per me essere in compagnia ma anche in famiglia, anche sul lavoro, in negozio, così, io amo farlo sempre divertendomi, e mi piace essere anche un po' il pagliaccio, ecco, del gruppo. Ma sicuramente io penso di aver ricevuto questo ottimismo, questo tra virgolette, insomma, buon carattere, sì, sicuramente da mia madre, che si chiama Arta, è un tipo pimpante di 75 anni, una donna talmente propositiva che anche nei momenti magari bui, così, lei ha sempre detto dobbiamo, le cose vanno risolte, e sempre col sorriso sulle labbra. In più mia madre racconta delle barzellette ed è proprio la simpaticona di compagnia. Quindi io sono convinta che probabilmente geneticamente avevo una predisposizione, ecco, però... ma sono convinta che stare accanto a una persona che vede sempre, trova la soluzione in tutto, e che rende la vita leggera, ma pur affrontando le difficoltà, questa è la cosa importante, mi ha sicuramente dato, è il dono più grande che mi ha dato. E questo l'ha aiutata ad affrontare la vita con un sorriso. Tanto Paola, le cose bisogna affrontarle. Anche quando, grazie Paola per il suo intervento, 800 24 00 24. Professor Crippa, adesso noi veniamo quasi anche con il sorriso dal dentista. Un tempo il dentista si andava un po' con il cuore pesante, l'ansia, con un po' di paura, l'ansia. Adesso diventa una visita molto più tranquillizzante, perché insomma avete a disposizione degli strumenti, come ci anticipava il dottor Martelli, che sono meno invasivi e danno sempre, no, ottimi risultati. È cambiata completamente la figura, il rapporto tra dentista e paziente, no? Sì, di fatto la tecnologia ci aiuta, ci ha aiutato e ci aiuterà sempre di più a fare in modo che il rapporto tra noi e i pazienti, soprattutto i piccoli pazienti, diventi sempre meno invasivo. È il caso appunto di queste nuove tecnologie come i laser, che hanno introdotto sicuramente un aspetto importantissimo nella nostra vita quotidiana professionale, e che ci aiutano indubbiamente a poter esplicare le nostre cure in maniera poco invasiva o comunque mini invasiva. Facciamo l'esempio oggi delle otturazioni che possono essere eseguite con laser a Derbio, sono eseguibili senza anestesia nella maggior parte dei casi, per cui questo sicuramente sia nell'odontoiatria pediatrica che nel trattamento delle carie per gli adulti diventa un fattore importantissimo, così come peraltro il dottor Martelli sicuramente ne potrà dire ancora di più per quanto riguarda il trattamento anche a livello gengivale oppure delle mucose. Ecco, orali. Dottor Martelli, ci faccia ecco proprio quel sorriso di tranquillità. Quali sono gli altri trattamenti che un tempo dal dentista spaventavano il paziente, erano dolorosi e adesso grazie degli strumenti tecnologici innovativi non dico che sono una passeggiata, ma insomma sono molto più soft. Per finire il discorso che aveva iniziato il professor Crippa sul laser ad erbio, è un laser che può essere impiegato in maniera estremamente fruttuosa anche in chirurgia ossea. Ed è una cosa importante perché quando si va a toccare l'osso nella cavità orale, essendo la cavità un ambiente settico, questo può portare spesso complicanze anche fastidiose oltre che dolorose. In ogni caso l'utilizzo delle nuove tecnologie di laser ad alta potenza ha dato secondo me una svolta radicale ad un trattamento per una patologia che tutt'oggi viene considerata da molti non curabile, non trattabile, che è la parodontite. E quindi vorrei... Ecco, per parodontite noi intendiamo una malattia che interessa le gengive. Un tempo la chiamavate piorrea, giusto? Sì, però dire che interessa le gengive è un po' ridurne il peso e la portata. La parodontite interessa tutta la struttura di supporto del dente, quindi le gengive. Che sono un po' quella guainetta, se vogliamo dire, che tiene i nostri dentini. Ne parliamo tra poco perché noi adesso abbiamo i mercati, quindi guardatevi le gengive, ma soprattutto pensate quanti sorrisi avete regalato da quando vi siete alzati stamattina. Avete sorriso ad esempio ai vostri bambini che sono andati a scuola, al vostro compagno che è uscito di corsa lasciando tutte le cose in disordine? Avete ricevuto dei sorrisi? Scambiamoceli tra di noi, chiamateci all'800 24 00 24. Con una bocca bella si sorride anche più volentieri e quindi ci occuperemo anche della salute di denti, gengive, ma occhio anche alla lingua e alle mucose. Vi aspetto dopo i mercati e il meteo insieme alla dottoressa Viola, al professor Crippa, al dottor Martelli e a voi con le vostre telefonate e i vostri sorrisi. A bientôt. Essere e benessere. All'inizio non dovevo andare all'università, dovevo diventare igienista dentale come mia sorella Beverly e io ho profondo rispetto per denti e gengive, in particolare per le gengive. Tutta la mia famiglia lavora nei denti. Apra. Allora, diamo una controllata ai danni. Oh cielo, non vedo premolari del genere da quando... Willy? Ciao, papà. Tutti questi anni, senza filo interdentale. Siamo tornati insieme, sorridiamo oggi e chiamiamoci per regalarci anche solo un sorriso. 800 24 00 24 o per raccontare magari ai nostri esperti qualcosa che in qualche modo disturba il sorriso. Può essere uno smalto non più bianchissimo, può essere una preoccupazione, un'afta, possono essere delle gengive non belle, rosate, come insegnano gli esperti, ben aderenti. 800 24 00 24. Anna dalla provincia di Arezzo, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno, dunque io sono Anna Bernardini, ho 45 anni, volevo chiedere al dottor Martelli una cosa. Dunque, io ho 7 denti che si muovono ed il mio dentista mi ha detto che l'unica soluzione per la parodontite sarà l'estrazione dei denti. Ora io però vorrei tenermi i miei denti, insomma, per continuare a sorridere serenamente. Chiedo, è una speranza inutile oppure esiste una possibilità per me? Guardi, dottor Martelli, perfetto, perché avevamo proprio iniziato a parlare di parodontite. No, la mobilità non di per sé non rappresenta necessariamente un'indicazione, un'anticamera dell'avulsione, quindi cioè di togliere il dente. Certo, ecco. C'è tipologia e entità della mobilità che vanno valutate e anche anatomia del dente che si muove. Noi normalmente riusciamo quasi sempre a trattare la mobilità con successo, con la mobilità dei denti frontali, mentre è più problematica la mobilità dei denti posteriori. La mobilità di un molare difficilmente può essere risolta. Comunque la mobilità verticale nell'alveolo Mi parla di troppo difficile, cioè cosa vuol dire? Quando che con questi trattamenti non si muove lateralmente, ma si muove anche verticalmente, il dente di solito è da estrarre. Però eliminare l'infezione parodontale porta sempre a una eliminazione, a una riduzione drastica della mobilità. Quindi non è automaticamente detto che bisogna togliere questi denti mobili. Ecco, quindi professor Crippa, prevenire è meglio che curare. Quali sono i segnali che non dobbiamo assolutamente trascurare per evitare di trovarci nella situazione descritta da Anna? Sicuramente la prevenzione, come da anni ormai insegniamo, è l'arma più importante a nostra disposizione. Una prevenzione corretta innanzitutto passa dal fatto di fare delle visite periodiche dal dentista e quindi di valutare lo stato da un punto di vista professionale, di lavarsi i denti almeno 2-3 volte al giorno, sì, di passare il filo interdentale. La salute del dente va di pari passo con la salute della gengiva, perché non dobbiamo dimenticare che anche dei piccoli segni, come per esempio dei sanguinamenti gengivali, possono essere, diciamo, la spia di un qualcosa che non va, e quindi questo deve portarci inevitabilmente a fare una visita di controllo. Dottoressa Viola, si può fare anche prevenzione per evitare di diventare musoni? Ecco, Mercoletta, non dobbiamo aspettarci che il buon umore ci arrivi come un regalo dal cielo tutti i giorni. Ci sono i caratteri gioviali, ma sono decisamente una minoranza. E nel nostro tempo è più facile trovare ragioni per non sorridere che ragioni per sorridere. Quindi cosa voglio dire? Che il sorriso deve essere anche frutto di un impegno. E mi perdonino i nostri ascoltatori se aggiungo un ulteriore impegno alle giornate già oberate. Ma si può in qualsiasi situazione vedere il lato buono. Diciamo proprio il lato ironico. Noi non possiamo pensare di essere di buon umore solo quando tutto va bene. L'impegno è essere di buon umore soprattutto quando le cose non vanno bene, e quindi vedere il lato ironico di ogni situazione è sicuramente salutare. E poi, questo è veramente un appello, Nicoletta, sì, io chiedo a tutti gli ascoltatori che hanno famiglia e soprattutto che hanno bambini, prima di aprire la sera la porta di casa, di preparare un bellissimo sorriso e di far circolare messaggi positivi. Quindi evitiamo che giornata, che stanchezza, che freddo, che caldo, che fatica, che crisi. Proviamo a dire a tutti buonasera con un gran sorriso, soprattutto per i più piccoli. Soprattutto per i più piccoli, anche per chi piccolo non è più. Facciamoci così, lanciamo questa campagna del sorriso. Oggi a Essere Benessere, se vedete persone sorridenti, sono amici di Essere Benessere. Dottoressa Viola, io la saluto e la ringrazio per essere stata con noi. Un abbraccio e un sorriso a tutti, buon lavoro. Buon lavoro anche a lei. Domenico dalla provincia di Varese, buongiorno. Buongiorno Nicoletta. Domenico, grazie per avermi chiamato. No, grazie a lei, però volevo sapere quanti sorrisi ha già regalato e quanti pensa di regalarne da adesso alla fine della... Già uno me l'ha fatto a me, quindi sono contenta. Ma sì, ma io sono... Un tipo sorridente. Sì, mi diverto, riesco anche nei momenti di quasi di sciagura di divertirmi, ecco. Riesco a sorridere, ecco. Domenico, ma sì, la sua domanda è rivolta a... Al dottore che parlava della, non della pioreia, qualcosa del genere, l'ha chiamato in un, sì, altro modo. Sì. Perché io ho questo problema. Si chiama parodontite, ma possiamo chiamarla anche pioreia. Il dottor Martelli non ci sgrida. L'importante è intendersi. Domenico, allora. Sì, ecco, io non è quello il problema, ma è qualcosa di simile, perché alla base delle gengive, da anni inizialmente in modo poco percettibile, ma via via si è sempre più accentuato, adesso veramente sta prendendo una forma eccessiva, mi si è creata come una fessura proprio alla base della gengiva sul collo del dente in alto, un taglio che proprio penetra il dente, come se il dente stesse per spezzarsi. Non è una carie e non si è formata solo su un unico dente, nel molare, ma anche in un premolare, in 2 o 3 denti, o questa cosa addirittura può penetrare l'unghia. Ecco, insomma, una specie di un'incisura. Ecco. Perché una crepa praticamente. Sì, la parodontite può contribuire in quanto nel momento in cui si abbassa la gengiva e si abbassa l'osso, ovviamente la gengiva lo segue sempre, si scopre la parte più debole del dente, che è quella dell'interfaccia fra la corona, che è la parte che emerge, che è visibile a tutti, e la radice, che invece dovrebbe stare dentro l'osso. Quindi questa interfaccia, che si chiama giunzione amelocementizia, se vogliamo usare un termine tecnico, è molto delicata, quindi tende in determinate situazioni a perdere tessuto e quindi si creano queste incisure. Comunque si può rimediare, è una cosa che si può rimediare anche facilmente, purché non ci sia veramente una parodontite che provochi un peggioramento costante. C'è un'altra causa che potrebbe determinare questo problema ed è il cosiddetto bruxismo, comunque dei contatti anomali a livello dentale che influiscono poi sui colletti, che sono poi la parte più debole. Come faccio ad accorgermi che bruxo se non ho un compagno vicino che mi vede o mi sente? Beh, sicuramente ci sono dei segni diretti, questo può essere un segno diretto, e un altro segno indiretto può essere per esempio l'usura dei margini incisivi oppure di altri margini dentali che nel tempo si possono creare. Si consumano. 800 24 00 24. Noi oggi parliamo di sorriso, parliamo di denti, di gengive. Io vorrei che voi faceste anche un po' attenzione alla vostra lingua. Che dice professor Crippa? Che spesso trascuriamo. In un tempo i medici facevano proprio tirare fuori la lingua per così farsi un'idea dello stato di salute generale del paziente che avevano davanti. Adesso non si usa più, forse ci sono degli strumenti senza il forse, però io, a me interessa anche la vostra lingua. 800 24 00 24. Andiamo a sentire che cosa succede sulle strade. Intanto ringrazio Carmelo Lauricelli, regia la parte tecnica, e poi noi torniamo di nuovo insieme con un sorriso. A tra poco. Essere e benessere. Capito, no? Si è dovuto sparare. Molto divertente, complimenti, nervi. Grazie. Lei sì che sa raccontarle le barzellette. Perché non fa quello di mestiere? Ah, sentito dei mariti, sai cosa vuol dire? È che dovresti fare un altro mestiere. No, che so far ridere la gente. Far ridere la gente è importante. No, tu non sei spiritoso, tu sei cretino. L'umorismo è una cosa sottile, intelligente. Le battute sagaci, i giochi di parole. Tu non sai neanche cosa sono i giochi di parole. Certo che lo so, lo scarabeo per esempio. Ma lascia stare, a te fanno ridere le cose elementari. Anche voi raccontate barzellette ai vostri pazienti, professor Crippa? Ma io non sono tanto bravo a raccontare le barzellette. Questo me la rende più simpatico. Anche perché nel nostro lavoro meno barzellette si raccontano, almeno dal punto di vista professionale meglio è. Ma comunque sicuramente una buona risata per sdrammatizzare anche il momento in cui visitiamo i pazienti o in cui facciamo le cure, sicuramente è una cosa interessante. Senta, torniamo seri. Io ho molti ascoltatori che mi stanno mandando messaggi descrivendomi la loro lingua. Carta geografica, lesioni, è bianca, è rosa, è punta e tonda, insomma ho veramente numerosi messaggi, potrei scrivere un trattatello sulla lingua, ma due informazioni base per tutti, per occuparci anche, no? La lingua fa la differenza. Certo. Diciamo che una delle maggiori, diciamo, preoccupazioni dei pazienti quando vengono alla nostra osservazione è la lingua carta geografica. Sì. Ma la lingua carta geografica, dobbiamo dirlo, non è una malattia. Può essere, è solo un po' bruttarella. Sì, esattamente, può essere un quadro magari di un disagio. Giustamente, come dicevi tu prima, Nicoletta, quando il medico di base ci faceva tirare fuori la lingua e ci diceva tu stai bene o tu stai male, non diceva una cosa sbagliata, perché la lingua a volte può essere un po' lo specchio dell'andamento del nostro organismo. In verità la lingua cartagiografica spesso si può ritrovare nei momenti di stress, oppure nei momenti in cui il nostro organismo non sta poi così bene, perché magari è sottoposto a tante altre, diciamo, piccoli disagi. In questi casi cosa facciamo? Quando ad esempio abbiamo delle, non so, la lingua cartagiografica, abbiamo delle piccole afte eccetera, sciacquiamo la bocca, usiamo i colluttori. Sicuramente qua, si possono, ad esempio Maria mi dice che lei disinfetta sempre la bocca con acqua e limone o con acqua aceto e lei è tranquilla, deve stare tranquilla. Insomma, l'uso di queste sostanze può essere anche nocivo, quindi bisogna stare un po' attenti a quello che si fa, anche perché l'uso eccessivo e la medicalizzazione eccessiva dei problemi, che a volte sono transitori, non deve chiaramente essere troppo esaltata. In questo caso il limone contiene l'acido citrico, può essere anche diciamo dannoso per quanto riguarda lo smalto dentale, così come l'aceto, quindi non bisogna mai esagerare nell'uso comunque di medicamenti per patologie o comunque per sindrome che non sono poi così da trattare. Dottor Martelli, invece invece a lei voglio chiedere se, come mi scrive Bruno, è bene passare il bicarbonato sui denti per renderli più bianchi. Non si, si rischia o è un buon consiglio? No, il bicarbonato di solito non dà problemi. Mm. Anzi, noi a volte consigliamo lo spazzolamento con un miscuglio di acqua ossigenata e bicarbonato nei casi di parodontite per fare un mantenimento a lungo termine. Mm. Così come consigliamo di spazzolare la lingua, perché molti batteri che provocano la parodontite si nascondono anche nelle pieghe, nelle plicche della lingua. Ecco, così con queste piccole regole di manutenzione noi possiamo sorridere, perché tante volte non sorridiamo proprio perché abbiamo paura di far vedere dei denti non completamente bianchi, allineati. Adesso ce l'hanno tutti bianchissimi, un po' americani, ma oggi io voglio proprio insistere su questo aspetto, perché secondo me poi alla fine ci fa stare un po' meglio, tanto che ho invitato Laura Toffolo, che è in linea con noi. Laura, buongiorno. Buongiorno. Perché Laura, esiste anche lo yoga della risata. Esatto. Ruberò a Laura un'intervista più approfondita da mettere nel nostro sito, perché sì, voglio che Laura proprio ci suggerisca dei passaggi. Non possiamo fare una lezione, 20 minuti di lezione in diretta, ma la faremo sul sito nel pomeriggio, quindi potete poi andarla a ripescare. Laura, ci spieghi esattamente che cos'è lo yoga della risata, così stuzzichiamo la curiosità dei nostri amici da casa? Perché io yoga, uno pensa alle asana, alla posizione. Ci sono delle posizioni strane anche per ridere? No, noi non ci basiamo sulle posizioni strane, ecco, ma più che altro su delle tecniche di respiro. Diciamo che lo yoga della risata è una tecnica unica, una rivoluzionaria, dove noi ridiamo come forma di esercizio. Non c'è bisogno di barzellette, di avere senso dell'umorismo, di fare gag. Cioè, ridiamo veramente in questa maniera, senza motivo. Mm. E anche perché abbiamo detto, insomma, motivi per ridere, ho sentito anche voi parlavate, non è che ce ne sono molti. Anche sì, con la... bisogna un po' inventarseli. Esatto. Ma noi non ne abbiamo bisogno, perché appunto sono tecniche meccaniche. Però poi quando ci ritroviamo in gruppo a ridere insieme, e ci guardiamo negli occhi e giochiamo, e la risata stimolata diventa ben presto una risata spontanea. E si mettono questo... tutto in moto, a parte tutta una serie di muscoli, perché Sì, quindi sì, va bene anche come ginnastica facciale contro le rughe. Ginnastica facciale, ma anche torna al buon umore. Ma interventi proprio più profondi, il buon umore subito cambia, ma anche proprio sul sistema immunitario, è un grandissimo antistress. Noi abbassiamo proprio i livelli del cortisolo, che è l'ormone dello stress, e produciamo più endorfine, aiutiamo a produrre più serotonina, insomma grandi benefici profondi proprio. E comunque si chiama appunto la yoga della risata, perché unisce questa respirare in modo profondo, o alcune tecniche che simulano appunto delle respirazioni yoga, tipo il Kapalbhati, che comunque è anche una tecnica di purificazione. Allora Laura, facciamo così, che oggi pomeriggio mettiamo sulla pagina di Essere Benessere una mini guida, un esercizio per yoga della risata, e mi auguro che lo senta anche, vada a vederlo e ad ascoltarlo il mio amico che mi mette sempre di buon umore, che è Shel Shapiro. Ciao Shel, che è in linea con amico, noi. Ciao, buongiorno. Allora, quindi oggi tu hai un appuntamento, tra l'altro sono giorni caldi per te, no? Ieri sei stato... Ieri Modena, sì. Sono giorni perché ieri abbiamo fatto l'anniversario della mancanza di Edmondo Berselli, mio socio nel teatro musicale, insomma. Sì. Quindi ieri sera eravamo a Modena, stasera debuttiamo all'Ambra Iovinelli a Roma. Per questo io l'ho chiamato, perché Shel, che per me è un amico caro e che mi risolleva sempre, no, l'umore, io ho detto lo chiamiamo perché sta facendo delle cose molto belle, però sta attraversando un periodo in cui, ricordando Edmondo, sicuramente ha il cuore un po' giù. Sai, sono quelle cose strane, Nicoletto, in qualche modo... È vero, però lo affronti con serenità queste cose, perché quello che stai facendo comunque ha una sua importanza. Lui era un uomo straordinario, di grande, era il mio amico genio, hai capito? Il mio amico genio. Ecco, mi manca la sua genialità, però essere in qualche modo con me è sempre presente, certo. Quindi non lo vivo in un modo triste. Assolutamente, lo ricordiamo con un sorriso. Grazie a Shel Shapiro, io ringrazio naturalmente i miei esperti, il dottor Martelli, il professor Crippa, Laura Toffolo che con noi farà lo yoga della risata. Allora, un ascoltatore mi scrive: non ha spiegato nulla sulla lingua bianca. Professor Crippa, se la colpa è mia me ne assumo le responsabilità. Lingua bianca, che fare per... Sicuramente se una lingua è bianca la prima cosa da fare è andare dallo specialista. Basta il medico di famiglia. Sì, il patologo orale sicuramente è la persona più indicata. E poi spazzolarla. Lo spazzolamento è sicuramente indicato, ci sono degli spazzolini che si possono prendere in farmacia, si chiamano raschietti linguali, e si può pulire soprattutto al mattino quando ci si alza, che a volte è più impagnata che non invece quando ci si corca. Abbiamo, spero, accontentato anche l'ascoltatore, non si firma, ma caro ascoltatore, ci regali anche lei un sorriso. Grazie a voi che ci avete seguito, vi aspetto domani. Essere e benessere.